Ok, allora eccoci, però non sta registrando, cioè sta registrando ma non tutto è a posto, tutto okay. Okay. Eccoci qui, siamo alla presentazione oggi del libro Con il reddito di cittadinanza, un'etnografia critica, libro di Marisella Cacciapaglia che è qua vicino a me. E siamo qui a ZAM in uno spazio occupato che lotta per una rivoluzione possibile e a tal proposito ricordo a tutte che da qualche parte c'è una locandina, non la vedo, l'abbiamo... ci sono più locandine, te ne diamo una dopo poi tra l'altro fine per la libreria, per partecipare a un concorso di scrittura creativa e inviare un bel racconto anche in forma anonima su una rivoluzione possibile, perché abbiamo bisogno di fare la rivoluzione, sognare. Ok, veniamo ora all'autrice. Maristella è una sociologa che lavora all'Università di Milano e il libro che ci presenta oggi è il risultato della sua ricerca di dottorato e ci racconterà un po' tutte le diverse, diciamo, sfumature dello strumento del reddito di cittadinanza. Ha scritto questo libro nella collana Democrazia e conflitti della casa editrice Meltemi, che a tal proposito ospiterà qui il festival. Saremo noi a ospitare Meltemi qui 11, 12 e 13 aprile e vi invitiamo numerosissime quante siete. E niente, veniamo subito a un'introduzione di Maristella e del libro, poi lascio, diciamo, cioè ti farò un po' di domande così, direi un massimo di 5 minuti, 7 a risposta, perché ormai abbiamo capito che ogni volta che viene a presentare qualcuno che lavora all'università, cioè li dobbiamo frenare perché parlano troppo, cioè, abbiamo sto vizio all'università che pensiamo di dover parlare sempre tanto. E, allora, il libro fornisce un'introduzione, è una ricerca critica sulle politiche del lavoro attivo e dei modelli a cui si ispirano questi strumenti. È una ricerca che si pone l'obiettivo di fornire una dimensione sociale a questioni che spesso vengono affrontate in termini un po' sterili, come è solito anche nell'Accademia, insomma, trattare la questione sociale un po' come categorie stagne all'interno delle quali si può intervenire, parlare, senza interrogare davvero la dimensione sociale sé stante. E nel libro vediamo un po' le diverse criticità del reddito di cittadinanza come strumento effettivamente, come è stato pubblicizzato, di inclusione, di uscita dalla povertà, di costruzione di percorsi di lavoro. E vediamo che in realtà queste criticità ci mostrano che lo strumento non è stato proprio molto capace a dare una vita, a garantire i diritti delle persone che hanno effettivamente bisogno di una vita bella, un lavoro dignitoso, una vita sana, tutele sociali e così via. E Maristella invece si avvicina appunto ai beneficiari del reddito di cittadinanza e soprattutto i beneficiari tarantini, perché lei ha fatto questa etnografia a Taranto, che è la sua città, e ci mostra tutte le vite diverse, le percezioni, le opinioni, le difficoltà delle persone che ha intervistato. E così facendo effettivamente, diciamo, non che ce ne sia bisogno all'interno di uno spazio come questo, però insomma sfata il mito di i beneficiari come quelle persone che non hanno voglia di lavorare, che stanno sedute sul divano e non hanno voglia di fare niente. Chiudo e apro con una domanda in realtà che prima vuole essere un po' di introduzione e rompighiaccio. Insomma, siccome noi abitiamo entrambe l'università e spesso critichiamo le logiche dell'università, non potevo non farti questa domanda, no? E la domanda è sullo scopo della ricerca, cioè anche noi spesso lamentiamo il fatto che l'università non riesce a restituire effettivamente qualcosa di reale alle persone. Più spesso che non le ricerche sono incentrate sul rafforzamento di logiche o di nicchie accademiche che vogliono focalizzarsi sulla conferma o la critica di determinate teorie e aspetti. E invece l'università e la ricerca avrebbero anche tanto da trasformare, potrebbero trasformare tantissimo la società, no? E come pensiamo, condividiamo questa cosa, io e te, questo lo so, l'università potrebbe soprattutto trasformare le vite delle persone ai margini, che sono le persone che tu appunto hai conosciuto più da vicino grazie alla tua ricerca. Secondo te, quindi, la ricerca etnografica, come una ricerca che hai fatto tu, può essere in qualche modo quel percorso, quel lavoro che rompe queste logiche all'interno dell'università e che facilita la ricerca militante? Se sì, come? Perché? Meno male che non era un esame, cioè mi sento. No, grazie per l'invito, grazie a tutti e a tutti per essere qui. E no, una bellissima domanda. Io e Laura, quando parliamo di queste cose all'università, parliamo forse almeno 2 ore tra un pranzo e l'altro di tanto, perché obiettivamente ci sarebbero tanti aspetti da sottolineare. E questo libro un po' nasce anche cercando di portare l'università ai margini. Nel senso che quando ho deciso di fare il percorso di dottorato e poi questo libro, affrontando questa tematica, era innanzitutto per sfatare alcuni miti. Miti, diciamo, della povertà che dicevi prima, ma anche miti proprio su che cos'è e che cos'è, o meglio, cos'è stato oramai il reddito di cittadinanza. Cioè, mi sembrava paradossale che venisse visto come appunto qualcosa da dare a chi voleva starsene sul divano per non farlo lavorare, quando invece si trattava fondamentalmente di una politica contro la povertà che era legata ad un percorso di inserimento nel mercato del lavoro che era obbligatorio ai beneficiari che si trovavano in condizione di occupabilità. E questa è una cosa importante che segna anche sociologicamente un cambiamento del welfare molto cruciale, che ormai in realtà è un percorso battuto da diverso tempo e da diversi contesti, che appunto per cui io mi merito un diritto sociale anche in una condizione di povertà e di difficoltà, non per forza economica, se lavoro o se comunque mi impegno per trovare un lavoro, mi impegno per formarmi, per tornare nel mercato del lavoro. Ed è un cambiamento epocale della cittadinanza che diventa economica. Si è cittadini se si partecipa al mercato del lavoro, e questo lo vediamo non solo con le politiche contro la povertà, lo vediamo sempre di più anche nelle politiche migratorie. Se un migrante riesce a entrare nel mercato del lavoro, soprattutto in determinati settori che sono strategici, allora si merita un permesso di soggiorno, si merita un inserimento. E quindi questo era un aspetto che nel dibattito pubblico, ma anche scientifico, veniva poco analizzato, veniva poco proprio problematizzato. Si dava, molte ricerche erano piuttosto, vabbè, capiamo quante persone prendono questo reddito di cittadinanza, quante rientrano nel mercato del lavoro, come i consumi di queste persone cambiano, come impattano l'economia locale, ma anche da un punto di vista più sociologico e più politologico, molti erano ad esempio interessati gli studi ai navigator, agli assistenti sociali, pochissimi guardavano i beneficiari. Ancora oggi sono veramente poche le analisi che hanno messo i beneficiari al centro. E questa era la seconda cosa che un po' volevo cercare di sfatare, cioè parlare di reddito di cittadinanza con le persone che più di tutti e di tutte erano interessate da questa politica, vivevano questa politica tutti i giorni. E mi sono resa conto che anche solo semplicemente dando loro la parola, una parola, la prima parola, già era un cambiamento nella loro vita. Perché la ricerca etnografica, tra l'altro in un periodo come quello del Covid, ha portato tante persone a non vedere l'ora di parlare, di essere intervistati. Questo lo noto anche adesso che faccio ricerca etnografica con i migranti in condizioni di irregolarità. Loro si sentono in qualche maniera ascoltati, si sentono qualcuno, si sentono presi in considerazione. E questo già è una cosa che la ricerca etnografica, in generale quella qualitativa, può fare per le persone. All'inizio non è stato facile farmi riconoscere come ricercatrice. Cioè, pensavano fossi un'assistente sociale buona, questo me l'hanno detto più volte. In alcuni casi pensavano che grazie a me poi dovessero arrivare su Canale 5, si aspettavano la telecamera da qualche parte. Quindi non è stato proprio immediato costruire questo rapporto, però questo rapporto, l'hanno detto loro stessi, è stato, cioè, essere sentiti, essere ascoltati oltre i pregiudizi, è stata già una cosa per cui l'università, la ricerca può cambiare le cose. E mi fermerei qua, se no faccio l'accademica e faccio tutta sta cosa contro gli accademici. Magari. Ci sta, quindi c'era un po' di stigma verso la persona che fa ricerca, secondo te? No, non c'era proprio conoscenza della persona, cioè ma anche perché adesso racconto questo episodio magari più simpatico, cioè anche andare, facevo ricerca sempre durante il periodo del Covid, all'inizio non potevo farla, tutti quanti eravamo down, fatto altro. La seconda volta c'erano le zone gialle, rosse, insomma in quel periodo andavo in macchina in alcune parti della città e più volte sono stata fermata e una volta un poliziotto fa: e che è l'etnografa? Che sa che? Perché ho detto: sono un'etnografa, devo fare quindi ricerca sul campo, ho bisogno di andare in quel quartiere. E quindi diciamo che c'era poca conoscenza in generale anche, no, di chi è una ricerca, che cosa fa una ricercatrice che adotta questo metodo. Quindi più che diciamo stigma. Lo stigma non era stigma, no, ce l'avevano loro purtroppo, e loro se lo sentivano addosso tutto, anche perché questo libro, tra l'altro Melte mi ha deciso di fare questa copertina gialla come verde. La carta verde, sì, perché non si poteva prendere il giallo di Poste Italiane, poi scoperto, vabbè. E comunque era una carta gialla che hanno dato a queste persone, tant'è che alcuni miei colleghi mi dice, all'inizio io ho cercato di dire: ok, voglio fare questa cosa, voglio parlare con le persone, come li raggiungo, come li incontro. Un mio collega mi fa: vabbè, basta che vai al supermercato, vedi la carta gialla che passano e ti metti là. E perché obiettivamente è una carta, adesso credo che sia la stessa anche per l'altro, che si riconosce, è giallo, e questo a conferma di una politica che ha voluto punire i poveri e sconfiggere la povertà, ricordiamoci sempre Di Maio. Benissimo, no, infatti Di Maio fece proprio quella famosa dichiarazione, no, aboliamo la povertà, stappando. Reddito per tutti, stappando dai balconi, cose del genere. Vabbè, abbiamo visto com'è andata. Ok, adesso, proprio perché hai iniziato già a parlare di stigma, no? Allora, apriamo la scatola. Perché in realtà, cioè, perché è sbagliato dal punto di vista dello Stato, come tu racconti nel libro? Perché è sbagliato chiedere alle persone di svolgere un'attività o di seguire un determinato percorso per ottenere dei diritti o dei percorsi accompagnati per trovare lavoro? E legandoci a questo, no? Cos'è il workfare state e in che modo è diverso dal welfare state? Perché tutta questa, diciamo, il reddito di cittadinanza e altri strumenti si inseriscono all'interno di questo workfare state. E chiaramente provocativamente ti chiedo: cosa c'è di sbagliato effettivamente nel dire che le persone si devono meritare il lavoro? Ok. Come narra appunto la logica, no? Del devi firmare un patto per il lavoro e devi riuscire a dimostrare che sei meritevole di un lavoro. Parli per esempio del reddito universale, no? E quindi contrapponi il reddito di cittadinanza ad altri modelli invece che hanno ispirato invece idee o politiche diverse orientate verso l'universalismo. Personalmente non sono d'accordo, però invece di dire una cosa magari più relativa ai miei ideali, che qui secondo me condividiamo tutti e tutte, dico semplicemente che aver legare una politica contro la povertà ad un percorso obbligatorio di inserimento lavorativo ha poco senso, perché la maggior parte di queste persone in realtà già lavora e sono lavoratori poveri e lavoratrici povere. Cioè, la cosa paradossale è di questo workfare, che è lo stato sociale, come dicevo prima, che dà dei diritti, se dà delle cose ai cittadini, se i cittadini si comportano in determinata maniera, ma non è semplicemente il fatto di quella maniera in cui si devono comportare è orientata esclusivamente al mercato del lavoro. E ci sono tanti lavori di cura per la comunità che sono fuori anche da questo mercato, e questo è anche il secondo motivo per cui non ha senso legare queste due cose, o meglio, ha senso per uno Stato che tra l'altro è sempre più punitivo, ha un pugno sempre più duro verso chi è, diciamo, in posizioni di vulnerabilità, invece sempre più ad un atteggiamento molto, lascia molto fare a chi invece è ai vertici della società, ed è quindi una chiara direzione di volerci tutti lavoratori e tutte lavoratrici, anche persone, appunto, tante donne della mia ricerca in realtà lavoravano tantissimo, solo che il loro lavoro era portare i figli a scuola, avere cura della casa, avere cura dei propri familiari, mantenere, cioè comunque portare avanti una casa. Questo era a tutti gli effetti lavoro, eppure non è il lavoro a cui si indirizzano queste politiche. E quindi, appunto, sbagliato, perché non prende proprio in considerazione questo tipo di attività, così come parliamo di una ricerca svolta a Taranto, dove tantissimi sono i movimenti ambientalisti, tantissimi sono anche le attività di comunità che vengono realizzate, vengono portate avanti anche solo per lottare contro un'acciaieria e non solo un'acciaieria, perché sono diverse le cose inquinanti a Taranto. E ad esempio un beneficiario, lui mi diceva: io vorrei il vero reddito di cittadinanza, quindi quello incondizionato, non il lavoro, perché mi permetterebbe di fare attivismo politico ambientalista senza problemi, senza dover... Ma in realtà il reddito di cittadinanza anche è stato chiamato, ma in una maniera che non lo è, tant'è che ci sono dei nostri colleghi napoletani che dicono dovevano richiamarlo Bino, Basic Income in Name Only, perché alla fine hanno preso l'espressione di un reddito di base universale incondizionato per fare esattamente il contrario. Tra l'altro, fare una cosa che c'era già, comunque il REI c'era, c'è il reddito di inclusione, ma anche adesso quello che c'è dopo, quello che succede è, cioè quello con l'abolizione del reddito di cittadinanza, semplicemente si è chiaramente molto, di gran lunga, ridotto il bacino di persone a cui possono dare questo reddito, però anche lì, se sei occupabile, cioè se puoi andare a lavorare, devi andare a lavorare. E poi un'altra cosa, e così chiudo e faccio anche una provocazione che ti piace molto. Questo reddito, questo workfare, non lega subito ad un lavoro. Tra l'altro, Jamie Peck, questo studioso o britannico o statunitense, non mi ricordo, che lui spiega che questo tipo di politiche non è per far lavorare chi non lavora, ma per far accettare dei lavori non belli. Non è creare posti di lavoro per chi non ne ha, ma è creare lavoratori di posti che nessuno vuole occupare. Ma al di là di questa versione del workfare, che soprattutto negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, che tu effettivamente qualsiasi lavoro che ti propongono tu lo devi accettare, in Italia non è proprio così, cioè, o meglio, fin per il momento non è così, e puoi rifiutarlo, puoi rifiutarlo anche a seconda non solo della distanza, vi ricordate la distanza era abbastanza emersa nel discorso pubblico, ma era anche legato al percorso che avevi fatto. Molte volte il percorso non c'era proprio perché erano tanti lavoratori informali anche, quindi era anche difficile ricostruire questo percorso. Comunque è anche legale, il workfare lega anche questo accesso ad una politica contro la povertà a dei percorsi di formazione, perché l'idea è che se tu ti formi trovi un miglior posto di lavoro. Allora io dicevo, quindi io che ho un dottorato devo avere un lavoro bellissimo a tempo indeterminato, e su questo chiudo perché so che poi è tutto, cioè non è che io non sono d'accordo, è che non ha senso questo legame. Due microfoni. Scusate, mi guardava la reazione del microfono, così è più facile anche fare il passaggio. Comunque posso certificare che è proprio così, cioè è proprio vero che se uno è abbastanza qualificato trova subito lavoro. Io con laurea triennale e magistrale faccio l'operaio edile. Per cui direi che ci siamo, no? Forme contrattuali è obiettivamente così. No, ma che poi erano le forme contrattuali che ci avevano già, cioè come più spesso e volentieri mi hanno detto, io non ho bisogno di del navigator per trovare un lavoro di merda, scusatemi. Cioè ce l'ho già questo, il motivo per cui sono nelle condizioni per cui ho richiesto il reddito di cittadinanza è che con il lavoro, che è il lavoretto che ho, non riesco a campare. No, no, figurati, anzi, se ci sono domande dal pubblico fatele anche interrompendoci, cioè è una chiacchiera più che una cosa formale, smontiamo un po' queste cose frontali. E, però a prescindere, cioè, partendo dal presupposto che ogni lavoro è degno e ogni lavoro, cioè di qualsiasi tipologia di lavoro si tratti, c'è dignità in tutte le forme, in tutti i lavoratori e le lavoratrici, la parte importante è che effettivamente le condizioni di lavoro devono essere degne anch'esse. Quindi, come racconti bene, ci sono tante persone che hanno già un lavoro precario, informale o lavoro di cura, che hanno chiesto appunto di partecipare a questo percorso e hanno fatto domanda proprio per uscire da questa situazione. Però peccato che, come racconti, la determinante è la condizionalità, cioè la condizionalità attaccata alla ricezione di questi di queste risorse o all'accompagnamento a determinati percorsi per poi trovare un lavoro, come il patto per il lavoro, diventano effettivamente degli ostacoli, no? E quindi qui, siccome tu anche sai che a me tutta la questione di valutazione, misurare le cose per dare qualcosa in cambio mi sta molto, la odio come retorica, però effettivamente anche qui oggi proprio ti faccio domande che odi e nel senso che abbiamo tutti un po' internalizzato, forse consciamente o inconsciamente, la retorica del merito, la retorica meritocratica, dove anche nelle interviste che fai ai beneficiari molti accettano in realtà la condizionalità che sta alla base del percorso. Anzi, diversi di loro dicono: ma è giusto che io debba dimostrare che ho determinate capacità o meno, o è giusto che io debba dimostrare, per esempio, è giusto che il reddito vada solo a chi se lo merita di più? E qui tiro in ballo due cose. Primo, se ci puoi spiegare un attimino meglio quali erano queste condizionalità, perché non so se le conosciamo tutti e tutte, cioè quali erano, diciamo, le caratteristiche importanti per qual era, come era fatto il patto per il lavoro, che esiste ancora se non erro, giusto? Patto per il lavoro. Cosa c'è dentro questo patto per il lavoro che devono firmare tutti coloro che poi volevano accedere al reddito? Un attimo una panoramica su questa, e poi questa cosa che tu invece dicevi ok, abbiamo interiorizzato come società il fatto che ci dobbiamo meritare anche i diritti. Ecco, e poi avevo trovato un passaggio interessante che vorrei leggere, se lo ritrovo. No, come vedi, me lo sono abbastanza mangiato. Qua dici, cito, per loro, i beneficiari, i meccanismi di controllo o quelli di condizionalità non rappresentano una questione di colpevolizzazione, di punizione o di controllo delle fasce più vulnerabili della popolazione e quindi di loro stessi, né un paradosso in un'area dove il lavoro dignitoso è particolarmente scarso. Questi meccanismi rappresentano più che altro un modo per tornare a contare come cittadini, ovvero un'opportunità di reciprocità con lo Stato da voler cogliere a tutti i costi. La loro è un'espressione sociale, collettiva, che è ormai tanto rara quanto ignorata dai sindacati, dalle organizzazioni del terzo settore impegnati per la giustizia sociale, dai partiti o dai collettivi informali di sinistra in tanti casi. A Taranto. Ecco, c'è un problema dove effettivamente per fare lotta politica non si è riusciti però a intercettare questo processo di interiorizzazione, cioè non si è riusciti a capire, cioè, o forse si è capito ma stiamo ancora capendo come poi contrastare questa cosa, come contrastare la logica meritocratica che si cela anche dietro a questi meccanismi, tanto sta che i sindacati appunto abbastanza... Sono stati, ecco, abbastanza incapaci nella gestione poi delle critiche che ci sono state anche rispetto al reddito. Quindi le due domande sono semplicemente per riassumere quali erano queste condizioni, certo, e in che modo secondo te noi possiamo, essendo noi all'interno di una realtà politica, di uno spazio, no, che cerca tutti i giorni di contrastare l'egemonia dominante di problemi di neoliberismo sulla pelle delle persone, come possiamo esorcizzare un po' questi processi di internalizzazione di una logica meritocratica, secondo te? Ok. Allora, o come potresti farlo tu, insomma, non è che... Okay. Allora, parto con i meccanismi di condizionalità. In realtà ce n'erano diversi, perché la platea delle persone veniva suddivisa più o meno in tre aree. Chi poteva lavorare, era occupabile, veniva indirizzato al centro per l'impiego, dove avrebbe firmato il patto per il lavoro, che adesso vi spiego meglio. Chi non era occupabile, nel senso che cos'è questa occupabilità? C'è proprio un indice a proposito di valutazione che fa ANPAL, che valuta il tuo titolo di studio, l'età, valuta anche da quanto tempo cerchi lavoro, da quanto tempo sei disoccupato, per quanto tempo hai lavorato e tante cose. A seconda di questo, di queste di diverse variabili, tu hai un certo indice di occupabilità. Quindi più hai questo indice alto, più puoi andare al centro per l'impiego. Se invece questo indice è troppo basso, o anche perché magari non hai proprio mai lavorato, come era il caso di tante persone, formalmente, fuori il mercato del lavoro, eccetera. Comunque, se non avevi lavorato, piuttosto venivi affidato ai servizi sociali e lì firmavi il patto per il sociale. Poi c'era tutta una platea, o meglio, una sottoplatea di persone che, ad esempio, perché... cosa molto importante da dire, il reddito di cittadinanza, sempre che non era un vero reddito di cittadinanza, non andava all'individuo ma al nucleo familiare. Quindi magari una persona lo richiedeva, ma tutte le persone in quella famiglia diventavano beneficiarie. Quindi magari in molti casi, sempre una questione di genere, il padre lo richiedeva, veniva convocato al centro per l'impiego con tutto il nucleo familiare. E poi il navigator si rendeva conto che la moglie non aveva mai lavorato e quindi faceva: non ti preoccupare, adesso tu vai ai servizi sociali. Come ho creato il gruppo WhatsApp io tra navigator e assistenti sociali, perché non c'era la piattaforma che riusciva. Quindi tante persone in realtà sono rimaste nel limbo, non erano subito indirizzate dove dovevano indirizzarsi. E poi c'erano i figli, ad esempio, di queste persone che stavano studiando anche all'università, o che stavano già lavorando, e in questo caso queste persone venivano esonerate, non dovevano fare nessun percorso. Così come, se un componente familiare aveva un carico di cura verso un genitore anziano, verso un altro parente, verso un figlio ma solo di minore di 3 anni, perché dopo 3 anni il figlio si cresce da solo, quindi va bene, in quel caso tu venivi esonerato dalle condizionalità, quindi potevi non andare in questa platea che non aveva, dovevano semplicemente firmare, dichiarare che erano in queste, ecco, in una di queste condizioni, quindi loro venivano, a loro veniva erogato il reddito di cittadinanza senza che a queste persone venisse chiesto qualsiasi cosa. Se invece si andava ai servizi sociali, il patto per il sociale veniva stipulato dagli assistenti sociali a partire non solo dalla condizione delle persone, ma anche da quello che il contesto offriva. In un territorio come Taranto, dove comunque anche il terzo settore è molto scarno di servizi, c'è un terzo settore organizzato, diciamo, la maggior parte dei patti che sono stati firmati era: mi raccomando, accompagna i figli a scuola, devi verificare che i tuoi figli effettivamente vadano a scuola, pulisci casa, e in alcuni casi magari è affidati ad un servizio per fare dopo scuola gratuito per i tuoi figli. Io non mi sono occupata tanto di questo aspetto, ma c'è da occuparsene. Io mi sono più occupata delle persone che invece firmavano il patto per il lavoro, e su questo quindi posso rispondere molte più domande rispetto a quell'altro. In questo caso, a seconda del tipo di lavoro che avevano fatto, questo patto prevedeva o di tornare a formarsi, di fare dei corsi di formazione specifici, quindi se una persona, soprattutto i più giovani, veniva richiesto loro di fare qualche corso di formazione, soprattutto nella logistica o nell'informatica. Quindi c'era una mappatura poi di corsi di formazione che veniva proposta loro e potevano scegliere. Anche se a Taranto questa cosa non si è mai, in Puglia questa cosa ha avuto difficoltà a realizzarsi, perché nel frattempo non è partito, adesso non entro molto nei tecnicismi, però non è partito quello che permetteva alla persona di andare a fare il corso di formazione gratuitamente, l'assegno di ricollocazione si chiama, e quindi in realtà loro dicevano: in teoria devi fare questo corso di formazione, però siccome non te lo posso garantire, se vuoi lo fai, se no non fa niente. In altri casi era cerca lavoro, o se tu mi dici quali sono più o meno le cose che vuoi fare, io ti cerco poi un lavoro. Però il patto per il lavoro in realtà era una cosa che firmavi in quel momento, e ci sono dei dati super interessanti dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro che fanno vedere che in Puglia, in uno degli anni che ho studiato, solamente 2 persone in tutta la Puglia erano state convocate per la seconda volta al centro per l'impiego. Ciò significa che quindi queste persone andavano là, dicevano: io voglio fare vorrei lavorare in quel settore, vorrei cercarlo. Ah sì, effettivamente tu potresti cercarlo lì, se nell'età occupabile, mi raccomando, cerca lavoro, mi raccomando, se ti offro un'offerta la devi accettare, se entri in queste condizioni, mi raccomando, formati. Poi ci risentiamo. Quindi molto spesso il patto per il lavoro è diventato effettivamente un piano abbozzato di quello che poteva essere un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro tramite formazione o tramite un migliore incontro tra domanda e offerta. E che però purtroppo non si è realizzato, anche perché sicuramente complice la pandemia, per cui anche solo fare un laboratorio, un incontro in cui i navigator ti avrebbero aiutato a scrivere il curriculum, questa cosa non è stata fatta all'incontro, perché non si poteva per questioni igienico-sanitarie, e quindi hanno inviato delle slide a delle persone che in tanti casi non avevano un computer e neanche uno smartphone in tanti casi. E slide con queste sono le slide per cui puoi scrivere il curriculum. Però tornando, quindi andando credo alla seconda domanda. Queste persone, quindi io dicevo, ma cioè, scusate, ma siete stati richiamati da Navigator? No, ma quindi cioè, siete contenti, cioè, siete, nel senso, ah, perciò potete prendere il reddito e fare quello che vi pare, come giusto che sia. E, beh, nel loro caso invece era una grande delusione, perché loro, per loro era finalmente... al centro per l'impiego sono andato con un appuntamento, quando solitamente per andare al centro per l'impiego a Taranto dovevi andare nel cuore della notte, solitamente verso le 2, metterti in fila e pagare una persona che organizzava la fila, e che se pagavi un po' di più poi ti dava magicamente il numerino che andavi, saltavi 10 persone, aspettare che aprisse l'ufficio e sperare che entro quel giorno tutti venivano convocati. Quindi il fatto per loro di essere andati in un ufficio del centro per l'impiego, convocati tramite SMS, per loro è stato, ah, quindi ci sono, cioè quindi mi date un servizio. E il fatto che finalmente qualcuno gli avesse detto, ma tu che lavoro vuoi fare? Ti aiuto a cercare lavoro? Però non veniva visto come devo andare a lavorare per forza, nonostante io già lavori e tutto. È magari un'opportunità per trovare un lavoro dignitoso tramite lo Stato. E quindi, cioè io poi lo spiego anche nel libro, quello che magari in una letteratura scientifica, in altre cose, è un obbligo, per loro piuttosto veniva visto come un vincolo benefico. Cioè io posso anche comportarmi bene se questo poi significa avere un qualche servizio. Certo è che è anche interiorizzazione, perché io dicevo ad esempio soprattutto ad alcune donne, ho fatto, vabbè, ma tu già lavori, cioè fai tantissime cose. In realtà questa interiorizzazione l'avevo vista molto soprattutto tra le donne, come se loro stesse non riconoscessero il lavoro che facevano. E quindi secondo me, di nuovo, anche semplicemente parlare con queste persone, ascoltarle e ragionare insieme, ecco, secondo me è una cosa che i collettivi potrebbero fare. Purtroppo a Taranto poi c'è la questione del contesto in cui, con un'acciaieria così inquinante, così importante, alle volte purtroppo la lotta sembra essersi sempre dedicata all'Ilva e si perdono tante battaglie importanti, cioè non si ascoltano le persone, ed è secondo me questo, se si ascoltassero le persone però alle volte ti direbbero qualcosa che magari non ti aspetti e che non vuoi sentire anche le volte dire, perché comunque tutto la mia cosa era anche a favore del reddito universale di base, quello vero, società di post lavoro e tutto. E poi ti rendi conto che invece alcune persone preferiscono piuttosto, cioè vedono ancora il lavoro, che sia dignitoso però, come una sorta di strumento, di veicolo, di identità. Perché è il motivo per cui loro volevano quei servizi e quel lavoro, che rispetto anche al lavoro di cura, era il lavoro nel mercato del lavoro che per loro era un sinonimo di identità sociale, e questa è un po' stata una scoperta della tesi, che anche in un posto come appunto Taranto ti rendi conto di quanto ancora il lavoro remunerato sia importante. E tra l'altro poi questo però allo stesso tempo, chiudo così, ha anche fatto sì che però quando poi Navigator li chiamassero per dire, se vuoi c'è quel lavoro per andare in campagna a raccogliere la frutta, o c'è quel lavoro da lavapiatti, tutte le loro speranze in quel patto per il lavoro erano crollate. E ancora di più non si sentivano ancora una volta traditi, perché avevano, cioè si erano anche detti, sì, io lo firmo il patto, vengo puntuale, sono venuto puntuale, finalmente mi hanno un'opportunità. E invece alla fine quello che è stato offerto loro molto spesso è stato un lavoro povero di cui loro erano già protagonisti. Ci sono domande? Io ne ho una in mente, però posso in realtà aspettare. Inizio, ho visto anche Mauro che... No, perché non è una... Scusa, lo sposto perché lo so che lo faccio cadere. C'è una considerazione che mi veniva in mente ascoltandoti, che ti ripropongo, in realtà la ripropongo in generale, anzi è doppia. No, non è doppia, sono due. Ah sì, perché sempre c'è il problema che col microfono uno pensa che è amplificato, invece no. Ci sta. No, la prima è su questo elemento prettamente italiano del reddito di cittadinanza, non tanto in quanto reddito ma in quanto ricaduta più politica del dibattito anche politico mentre veniva sia strutturato, sia vissuto e anche soprattutto quando è stato chiuso, perché ha rimarcato un elemento che in Italia è sempre stato molto presente nel dibattito, che era la differenza nord-sud Italia. Perché dentro un po', cioè, insomma, dentro alla vulgata, no, dei furbetti, di chi ne approfitta, di chi aveva il reddito ma faceva anche lavori in nero, eccetera, eccetera, ce lo ricordiamo, c'era proprio nel linguaggio un razzismo profondo nei confronti di alcune regioni, tra le altre del sud Italia specifiche. Anche Sardegna, però. Io ricordo che, adesso non ricordo dove, ma ho letto che in effetti la regione con più beneficiari era la Campania, se non sbaglio, e questo dato, no, riconsegnato all'opinione pubblica, perfetto, cioè proprio quello che volevano sostanzialmente. E questo dico tipicamente italiano perché è l'ennesimo irrisolto, non solo politico, diciamo, di strutture politiche, ma anche proprio di dibattito culturale politico sul significato di questa, di diverse disparità tra, adesso dico nord e sud, sapendo che poi non è uguale né tutto il nord né tutto il sud ovviamente, però tra alcune regioni, in questo caso del sud Italia, considerate non solo poco produttive o in difficoltà, ma macchiate fortemente da questa, dagli stereotipi razzisti, meridionalisti, classici, no? Quindi gente che non ha voglia di fare nulla, eccetera, eccetera. Mi pare che il reddito questo l'abbia appunto rinforzato. Non il reddito come era stato strutturato, con cui si può essere d'accordo o meno, no? Ma proprio la discussione, il dibattito e anche il gioco che diverse figure politiche hanno voluto fare poi nell'affossarlo fin dal minuto uno. E poi, insomma, in qualche modo ce l'hanno fatta. Quindi, insomma, il primo tema era questa cosa qua, nord e sud, riflessioni varie su questo, perché anche là quello che è mancato per l'ennesima volta è che se effettivamente ci sono delle richieste maggiori in determinati luoghi dello Stato, più che ragionare su tutto quello che l'opinione pubblica ha fatto, dovremmo ragionare sul motivo per cui c'è tutta questa necessità di richiesta di supporto economico da parte dell'istituzione, che probabilmente in altre situazioni non c'era. E l'altra, insomma, e questo è il primo tema a cui si lega tantissimo, e questo sì che è uscito più volte, la parola povertà, perché questo paese ha un grosso problema con questa parola, cioè noi, culturalmente, politicamente, si è veicolata sempre da più parti politiche, anche a livello istituzionale, quest'idea, che poi è molto legata al merito ovviamente, come si diceva prima, però che la povertà è una colpa. Cioè la povertà è un peccato etico, morale, è un peccato quasi che va a variare il tuo livello di cittadinanza o meno, qua. Cioè, se sei davvero un buon cittadino, una buona cittadina, non sei povera perché ti sei data da fare, eccetera, eccetera. Il tema profondo nel togliere il reddito di cittadinanza, o comunque nel rimodificare, non perché col reddito di cittadinanza appunto era stata abolita la povertà, però sicuramente col toglierlo, mi pare, però questa è una considerazione mia che poi ti propongo qua, che il capitalismo ha perfettamente, il capitalismo e i suoi servi o comunque chi rappresenta i suoi interessi ha perfettamente consapevolezza che il lavoro è quella cosa che noi, insomma, che i movimenti anticapitalisti e rivoluzionari hanno sempre cercato di tematizzare in un'ottica conflittuale, cioè il lavoro è quello che noi riusciamo, che il luogo del lavoro, il tempo del lavoro è un luogo, è un tempo di conflitto nei confronti del capitale, nei confronti di chi ne trae profitto, e quindi è un luogo interessante per fare la militanza politica, perché è un luogo in cui il conflitto avviene sotto vari punti di vista. È chiaro che il non tutelare i vari aspetti del lavoro o varie forme più o meno di welfare, io conosco un botto di compagni e compagne che tappandosi il naso hanno votato i 5 Stelle all'ultima elezione perché in effetti difendevano il pezzo di welfare sociale reale, criticabile o meno, però reale, esistente rispetto a tante altre formule ormai completamente scomparse e abolite. Però effettivamente pare che la battaglia che hanno fatto nel toglierlo, oltre a tutta la retorica razzista verso il Sud Italia e tutta la retorica che ruota intorno al merito, nascondeva una consapevolezza reale che il capitalismo è capace perfettamente di mantenere al suo interno diverse sfumature di sistemi economici di sfruttamento del lavoro, quale per esempio lo schiavismo. Cioè il capitalismo ha sacche intere di lavoro di schiavitù, di reale schiavitù, che noi sappiamo essere come forma economica un'altra cosa rispetto al capitalismo, ma invece all'interno del capitalismo questa cosa avviene, cioè sostanzialmente costa molto meno alla classe dirigente il fatto che possano esserci condizioni di lavoro in nero, sfruttamento, eccetera. E questa cosa è stata completamente sorvolata, cioè togliamo questo strumento perché dicevano non funziona, non è utile, perché la paghetta noi non la diamo, eccetera eccetera, perché il lavoro bisogna, perché il lavoro va trovato, perché il lavoro è dignità, perché il lavoro crea la tua identità, eccetera eccetera, e nessuno ha posto e ha preso in mano la questione del fatto che tolto l'ennesimo strumento, un po' di tutela di alcuni ambiti o di potenziale fuoriuscita da alcuni ambiti, quello che è stato fatto è stata riconsegnarla completamente a tutti gli altri sistemi che esistono, che non è soltanto lo schiavismo, ma sono anche i sistemi della mafia, dell'andrang, cioè a altri sistemi proprio di controllo e di lavoro delle persone e delle vite, no? Questi due elementi, io non l'ho letto il libro, gliel'ho detto subito, cioè non avevo colto questa cosa, quindi mi dispiace molto, perché vedendo l'indice e poi mi interessano molto le ricerche etnografiche, quindi sicuramente lo leggo, però insomma questi due elementi mi paiono molto importanti sulla questione in generale, no? Di che cosa è, al di là di quello che era nella struttura, che cosa ha significato, che cosa ha creato e che cosa non ha aperto come spazio proprio di dibattito che potevamo e avremmo dovuto invece rinforzare fortemente, perché il problema, e chiudo, si chiama proprio povertà. Non abbiamo niente, cioè si poteva anche riprendere, si poteva e comunque potremmo, si può proprio tematizzare di nuovo con parole nuove che io non conosco, eccetera eccetera, tematizzare proprio come il luogo e il tempo del lavoro, qualsiasi esso sia, è un tempo e luogo di conflitto con le strutture del capitale, sempre e comunque, che sia lavoro intellettuale, manuale, artigianale, è questo tempo è il tempo e luogo del conflitto che va sfruttato bene, va riappropriato, va declinato, insomma, e va ampliato poi ovviamente come discussione sotto vari punti di vista. Grazie della riflessione. E mi è venuto in mente subito una cosa che è emersa in tante storie di beneficiari e beneficiarie, e cioè che un po' anche questa cosa va contro la retorica del reddito di cittadinanza, che non ha funzionato, effettivamente io stessa lo dico, però non ha funzionato come politica attiva del lavoro, cioè come reinserimento, come politica contro la povertà ha funzionato e come, se pensiamo che comunque tante persone, di nuovo durante la crisi pandemica, quando anche tantissimi lavori informali, chi, non so, andare, chi faceva le pulizie, eccetera, sono stati spazzati via dalla pandemia. E quindi sono state tante persone che non avrebbero avuto neanche quell'entrata senza il reddito di cittadinanza. Quindi se lo vediamo proprio come, sono vari studi anche in realtà, come contrasto alla povertà economica ha funzionato. Però ha funzionato anche rispetto a quello che dicevi indirettamente, però ha funzionato anche nel poter dire di no a dei lavori, a determinati lavori, cioè nel senso tanti beneficiari non solo hanno rifiutato magari il lavoro da lavapiatti o il lavoro in campagna che le avevano offerto i navigator, ma anche mi hanno, cioè, mi raccontavano, fa, io grazie al reddito di cittadinanza piuttosto non vado più a lavorare anche la notte quando mi chiamano a fare dei turni, cioè ho quel respiro in più che mi, ho quel, diciamo, quelle entrate economiche in più che mi permette di stare un po' più tranquillo e di non dover fare, cioè di non dover proprio accettare qualsiasi condizione, cioè mi ha permesso anche di dire di no ad alcuni lavori. E questa è una cosa per cui il reddito ha funzionato e come, da questo punto di vista, e perché non li ha messi più, almeno in parte, nelle condizioni di essere ricattabili, di essere dipendenti da determinati o datori di lavoro, anche no, quello che dicevi, no, rispetto a anche a dire, cioè, ci sono in alcuni territori delle regolazioni mafiose che permettono di avere un posto di lavoro piuttosto che un altro. E anche questo è comunque avere il reddito di cittadinanza e non dover andare a chiedere il mestiere, come si diceva un tempo, e a qualcuno. Quindi è stato molto importante. Così come è stato importante anche per alcuni, di nuovo, ad esempio quel corso di formazione che con la regione non potevo fare, avevo dei risparmi magari miei, il reddito di cittadinanza l'ho utilizzato per fare la spesa, per pagarmi le bollette, e quello l'ho fatto per fare un mio corso, per fare qualcosa di mio. Di nuovo, quindi non dover necessariamente andare a lavorare o utilizzare i propri risparmi per fare qualcosa di sopravvivenza quotidiana, ma anche cercare di dedicare anche del tempo un po' a me. Non per forza, alcuni hanno fatto dei corsi di formazione per lavoro, uno mi ha detto ho fatto un corso di fotografia che volevo fare da anni e che non mi potevo permettere, cioè, non è per me, abbiamo dato i soldi a chi non vuole fare niente, abbiamo dato una scelta in più a delle persone che magari prima non ce l'avevano, è questa che la politica pubblica per me dovrebbe dare, queste possibilità, prescindere dalle risorse che si hanno. E sul nord-sud, sì, io ero già nel sud, quindi diciamo che questa cosa non veniva, peraltro non vivevo neanche a Milano, quindi lo vivevo meno, vedevo gli attacchi sui giornali a prescindere dai beneficiari, così come tantissimi attacchi a chi aveva il Rolex, a chi aveva la Porsche, allo stesso tempo prendeva il reddito di cittadinanza. E molti beneficiari, ritornando alla questione dell'interiorizzazione, mi dicevano: eh no, io conosco persone che prendono il Rolex, che hanno il Rolex, cioè praticamente esattamente le cose che dicevano in televisione lo dicevano anche loro. Però se andiamo a vedere i dati, vediamo che in realtà il reddito di cittadinanza è stato poi revocato a solo il 4% della platea beneficiaria, e di questo 4% il 90% sono casi di persone straniere che non avevano il requisito di 10 anni, che tra l'altro adesso spero la Corte Costituzionale lo boccia anche in Italia, anche se non lo so come andrà a finire, stiamo aspettando la sentenza da un giorno all'altro. La maggior parte quindi non è che avevano il po', cioè che erano appunto quei furbetti, ma semplicemente non avevano 10 anni di residenza, quindi stereotipi su stereotipi che effettivamente poi danno È come se portano l'attenzione da una parte e danno ancora di più, legittimano il motivo per cui tu non combatti la povertà. E che è in aumento, non solo in Italia. Adesso non posso darti dei dati alla mano più recenti perché mi occupo di tutt'altro, purtroppo, però cioè, nel senso, credo anche dati Caritas o altro, ma anche semplicemente per strada si può notare che, e se si parla ancora di più di povertà lavorativa, la questione diventa ancora più preoccupante, perché forse in una città come Milano in tanti siamo in povertà lavorativa. Ciao, volevo essere silenziosa, ho rovesciato l'acqua, vabbè, fa niente. Stavo ragionando un pochino sulle varie tematiche che sono emerse e in realtà io non so praticamente niente del reddito di cittadinanza, ma stavo pensando ad esempio, beh, mia mamma ha una malattia cronica che è riconosciuta, quindi ha la pensione da sempre, non può lavorare e... però è una pensione di circa 300 euro. E lei mi diceva, nonostante moltissimi farmaci, moltissime visite mediche, io non le pago, con quei 300 euro non prendo nemmeno l'Oki per il mese. E tu ci pensi, perché poi quando io e lei parliamo, lei mi dice... come fanno, mi fa sempre il paragone, come fanno le altre mamme che hanno una casa, hanno un lavoro, hanno una figlia, fanno tutto e io non faccio niente. Io dico, mamma, cioè tu ti curi 3 ore al giorno, curi me, curi una casa di 160 metri quadrati, fai tutto il resto, non mi puoi dire che non fai niente. E lei invece continua a ribadire questo concetto del fatto del ma io rispetto alle altre persone non faccio niente, o io non studio come quanto lo fai tu. E mi fa molto pensare di come non sia mai sia la questione della disabilità e sia di quanto non sia considerato rispetto tutto il lavoro di cura. E quindi che, nel senso, è una stratificazione di tematiche davvero ampia. E poi, sempre rispetto al fatto delle malattie croniche, ci sono malattie croniche che non sono riconosciute, quindi magari hai l'endometriosi, non puoi andare a lavorare. E cos'è? Non è che non stai facendo niente tutto il giorno, ti stai curando, cioè nel senso, e secondo me è un altro aspetto. Poi io appunto non so se ad esempio persone con malattie croniche non riconosciute potevano accedere al reddito di cittadinanza, se erano comprese tra le varie persone. Dipendeva dall'ISA. Se ok. Sei disabile, no, perché in quel caso è la pensione. Dipende dall'ISA, esatto. Però di come davvero... per non parlare, va bene, il fatto del fatto sì, hai la sanità gratuita, magari hai un sacco di visite gratuite, però magari ci metti un anno ad ottenere quella visita, quindi poi dici, beh, 150 euro non ce li ho per prendere una visita il giorno dopo. E appunto il reddito di cittadinanza ovviamente non era un qualcosa che permette, cioè che aprisse la strada del lavoro, e ho compreso perfettamente, sono d'accordissimo con quello che dicevi, però magari... ti permetteva di avere una scelta che prima non avevi, se questo era il punto. Poi d'accordissimo sul fatto che il reddito dovrebbe essere universale senza dover per forza rubare tutto il tuo tempo nel lavoro, però pensato di quanto anche la discussione pubblica e la narrazione era inesistente su questo, cioè la narrazione era appunto lo Stato ti dà i soldi che così sei sul divano, cioè quando in realtà non era per niente il punto di nessuno di tutto questo, di niente. Grazie. No, grazie a te. In effetti c'è anche il reddito, su questo hanno detto prendono 1200, 1200 era impossibile perché là c'era proprio un tetto, anche per le famiglie numerose mi sa che non arrivavano a 1200, ma in alcuni casi c'è conosciuto beneficiari che prendevano 50 euro o 150 euro, cioè non di più. La media era 600 euro, la media in tutta Italia. Ecco, di lì c'è la questione, anche nord-sud dicevano 600 euro al sud hanno un valore, 600 a Milano ne hanno un altro, quindi bisogna fare delle cose differenziate e tutto. E, però io continuo a pensare che il fatto che delle donne che non valorizzano il lavoro di cura sia un tema perché alla fine comunque in tante lo fanno, cioè anche se per scelta non per scelta, comunque in tante si ritrovano a farlo, e pensare che loro stesse sono le prime a non valorizzarlo, per me è una tematica su cui si può lavorare sinceramente, cioè nel senso, perché alle volte hanno bisogno di sentirselo dire da una, da più persone, perché cioè, se ancora, se loro stesse non lo riconoscono, magari non lo sentono neanche da chi gli sta intorno, o dice solamente una persona, o invece se magari un collettivo tra di loro anche si confrontano, secondo me sarebbe molto importante, perché è una questione femminista molto, che magari non, forse si tralascia, perché si pensa sempre, no, che il lavoro di cura non deve essere solamente femminile, invece così quindi vai a rafforzare magari degli stereotipi che prendi le donne per fare di lavoro di cura, però effettivamente tante non si valorizzano, non è che non lo valorizzano, il fatto è che non si valorizzano. Grazie. Posso dire solo una cosa a spot, ma non è un intervento, una cosa che mi fa molto ridere. Noi abbiamo una piccola casa editrice che si chiama Asterisco Edizione, abbiamo ripubblicato un libro che si intitola Il salario alle lesbiche, che è una raccolta di documenti degli anni soprattutto 80 ma anche 90, di questa campagna di un gruppo, di un collettivo internazionale di donne lesbiche, bisessuali, poi adesso si è aperto anche a donne trans, eccetera, eccetera, che si inseriva all'interno della campagna mondiale del reddito per il lavoro di cura. E mentre adesso facevi questa riflessione sul lavoro di cura, a me è venuto in mente che in quel libro c'è questo volantino che insomma, le testimonianze poi ci dicono, fece molto scalpore in Inghilterra e fece sì che questo tema del reddito per i lavori di cura andò in un tribunale addirittura, perché un'associazione aveva denunciate per questo volantino che diffondevano, quindi si arrivò in tribunale e questo volantino loro diceva: ma sapete che c'è? Che in questo mondo essere lesbica è un lavoro, perché ci dobbiamo dichiarare, perché dobbiamo lottare con le famiglie, con lo Stato, con la Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi noi vogliamo i soldi per essere lesbiche. Li portarono in tribunale e il giudice, ovviamente il tema lì era, adesso non ricordo esattamente, però era più di offesa alla morale pubblica, perché c'erano frasi molto esplicite, tra cui molte di queste erano anche madri che vivevano singolo, in coppia, eccetera, eccetera. E il giudice... la sentenza si chiuse, non ci fu colpevolezza per questo volantino, però da quel tribunale ne uscì dicendo, il giudice dichiarò che in effetti detta così è proprio un lavoro. E adesso ci ho pensato, era molto interessante questa cosa. Loro lo facevano sulla questione lesbica perché si occupavano di quello, ma la campagna all'interno del quale si muovevano era una campagna che negli anni 80 e inizio anni 90 era molto potente in diversi contesti occidentali e che oggi ancora esiste, che è quella appunto per il reddito per i lavori di cura, ma che sia completamente proprio persa, cioè, ed è quello che dici tu, cioè che proprio neanche lo si riconosce come lavoro, non si riconoscono come lavori, mentre negli anni 80 ci dicono c'erano questi grossi congressi mondiali, ovviamente in ambienti molto militanti, che veniva dal femminismo storico, da altre realtà politiche, ma che comunque riuscivano a tirare, a raccogliere numerosissime donne di diversi contesti che lottavano nei vari paesi per sensibilizzare sul fatto che la cura è un lavoro e che come tale necessita di un salario da parte dello Stato. Non salario da, poi loro aggiunsero anche essere lesbiche ed era divertente. Così, scusa. Molto interessante. Non l'ho letto. No, sì, ma si trova anche il salario delle lesbiche, trafiscono cose. Anche la Federica. Ma esatto, mi sa che il femminismo italiano era abbastanza in prima linea su questa cosa qua del reddito di cittadinanza negli anni 70, eccetera. E no, per collegarmi a quello che diceva Mauro, fa sorridere poi che un governo nazionalista come quello della Meloni, che si prepara un piano europeo di riarmo, non debba concedere un reddito alle madri della patria che faranno nascere bambini validi per la prima linea del fronte. Cioè, allora facciamo, se ce lo fate fare, ci date i soldi, perché sennò potrebbe essere un'interessante discussione da fare. No, allora, cioè, Questo tipo di iniziativa, la presentazione di questo libro, in realtà è interessante secondo me anche nel quadro più ampio delle cose che stiamo facendo, perché domani qua ospitiamo la prima assemblea pubblica verso il 1° maggio, che quest'anno sarà una street parade, eccetera eccetera, e quindi questa cosa del lavoro, che poi per noi di Zama è anche un po' il concetto di lotta di classe che torna, o che dovrebbe tornare, o che si cerca con l'antenino e non si trova, è una delle cose che è successa nella lotta di classe, se si può dire così, di recente, è stata proprio il reddito di cittadinanza, cioè questa cosa per cui a un certo punto lo Stato prendeva dei soldi, prendendoli da chi li aveva, anche li aveva poco, da chi li aveva troppo, sempre troppo poco, da chi li aveva, e li dava a chi non li aveva, a chi non li ha, a chi non li poteva percepire perché non riusciva a lavorare. È, cioè, un tema, punto. L'altra, cioè, sembra interessante che se ne parli oggi, peccato che non c'è, magari la gente che ci sarà domani, qui oggi non c'è, ed è un peccato perché magari appunto potevano essere anche cose che si rilanciavano l'una con l'altra. È interessante che forse un pezzo della lotta di classe in questo paese oggi, insomma, magari è un mio pensiero più personale, dovrebbe ripartire proprio dall'ultima parte dove ci siamo lasciati, dove è finita la lotta di classe nei famosi anni 70-80, cioè il rifiuto del lavoro. Cioè iniziare a dire: ma perché dobbiamo lavorare? Che significa? Perché dobbiamo lavorare sotto padrone per salario con 8 ore, 40 ore settimanali, 160 ore mensili, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, fino al diventare, magari sfiorando l'accelerazionismo, perché dobbiamo veramente lavorare nel momento in cui ci sono macchine che lavorano per noi? E allora, se soltanto fosse collettiva la proprietà dei mezzi di produzione e il beneficio di questi mezzi di produzione, allora forse molta gente non dovrebbe più lavorare, che poi è il solito discorso che per me diventa: perché Jeff Bezos guadagna $250,000 all'ora? Cioè, come fa? Per quanto lavora? Quanto è capace di fare questo uomo che il suo tempo di lavoro vale così tanto? Non è veramente il suo lavoro che vale così tanto, è la proprietà dei mezzi di produzione, è il diritto di proprietà sul trend che ha inventato, che è Amazon, sul marketing che ha inventato, che è Amazon, che gli ha dato questo valore. E allora io non ho valore perché dovrei lavorare 250.000 volte più duro di quello che lavoro tutti i giorni sui ponteggi per arrivare al, cioè, nel senso, cazzo è la differenza, due mani a lui, due mani io, due occhi, quanto avrà studiato quest'uomo per essere lì? Vabbè, adesso stando ai voli pindarici miei, però, cioè, secondo me dovrebbe ripartire da lì. Stringo di brutto perché sennò anch'io vado a caso. Io non so come fecero i padri fondatori di questo Stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, quando scrissero la Costituzione, perché scrissero l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Cioè, se veramente avevano compreso nella maniera più profonda la cosa che accomunava da Trento fino alla provincia di Ragusa il vero spirito dell'italiano e dell'italiana, che era il lavoro, ed era sul lavoro che si fondava un'intera nazione si poteva fondare. Non so se ci avevano visto lungo, avevano visto perfettamente la realtà, avevano sognato, avevano scritto a casaccio, però sta di fatto che come è potuto accadere, ma anche quello che raccontavi tu prima rispetto al fatto di vedere la propria dignità in base al lavoro che si fa, vedere il fatto che si viene riconosciuti come meritevoli finalmente di un lavoro degno, vedersi poi scrollare questa fiducia, questa certezza, nel momento che il lavoro che viene proposto è lavoro schifoso come si faceva prima, non, secondo me è un po' sbagliato, un po' classista dire, cioè, è un lavoro di merda andare a raccogliere le arance piuttosto che pulire per terra, questo, ogni lavoro è lavoro. La cosa brutta è che veniva di nuovo una roba semplicemente parcheggiato, senza valorizzazione di se stesso e una crescita personale, senza che fosse un lavoro veramente utile per la comunità, la collettività, ma semplicemente per qualche ente che aveva bisogno di qualcuno pulisse il pavimento e basta, che significa essere rotellina di un ingranaggio in un qualche angolo buio e chi se ne frega, è anche svilente per l'essere umano in sé. Purtroppo sarà evidentemente la sera in cui mi perdo. Il concetto è: affrontare lo scoglio del lavoro in Italia sembra essere più complicato che altrove. Nonostante il lavoro sia un simulacro, un immaginario immenso in paesi come la Germania, come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti d'America, che sul lavoro hanno fondato tutte le loro ricchezze, tutte le loro potenzialità, che adesso li portano, o la Cina, dove lavorare come un cinese è una roba concepita, però noi abbiamo questo scoglio assurdo, per cui affermare che non è necessario lavorare per forza per vivere sembra essere la più grossa cosa blasfema, oscena, orribile, come una volta poteva anche essere, non lo so, dire: noi poveri vogliamo avere diritto di votare, noi donne vogliamo avere diritto di votare, noi pezzenti vogliamo avere diritto di contare qualcosa in questo paese. Cioè, è un blasfemia tanto quanto. Beh, secondo me quindi bisognerebbe ripartire da lì. Arriva una cosa che può sembrare una semplice domanda dopo questa divagazione. secondo te, con le persone che tu hai incontrato, com'è che si potrebbe, in base alle persone che tu hai incontrato, le esperienze che hai fatto incontrandole, come si può veramente provare a scardinare questo concetto che bisogna finirla di pensare che sia il lavoro salariato, retribuito, sotto padrone o all'interno del mercato del lavoro il centro della propria vita e non magari qualcos'altro, che è la propria comunità, la propria, il proprio benessere, la soddisfazione dei propri bisogni? Perché mi sembra che sia proprio quello lì l'immaginario da scalfire. È impossibile che siamo ancora qui a qualificarci in base al fatto se abbiamo lavoro o non abbiamo lavoro, se è un bel lavoro, se è un brutto lavoro, se è pagato tanto, è pagato poco, eccetera. Perché comunque è tutta una retorica che è funzionale poi al padronato, si diceva, un miliardo di anni fa. Anda, quanto 900, mamma mia. Posso fare una risposta a Guglielmo? Ma non vuoi? Che è tanto bello quello che dici, però effettivamente c'è anche una condizione materiale. Infatti c'era la parte contro queste femministe, per esempio, che non voleva il reddito perché non voleva essere inserita all'interno dei processi capitalisti e diceva no, anzi, noi non vogliamo riconoscere il reddito perché questo ci inserisce ancora di più nella logica di produzione, bla bla bla, e quindi no, grazie, non vogliamo il reddito. Però forse, cioè, volevo solo commentare perché anch'io vorrei essere fuori, anch'io vorrei non dover attaccare l'identità al lavoro, eccetera, però poi materialmente come fai a non considerare che hai bisogno di un lavoro per avere un reddito? Posso rispondere anche, ho parlato già troppo. Quindi ti abbiamo aggiunto una domanda. Devi risolvere la crisi del comunismo. Esatto, grazie. Vuoi? Che è il grande tema dei movimenti comunisti internazionali. Ah, il fatto deve che... questo deve entrare nella registrazione. Maristella stasera risolve. Dovresti risolvere la crisi dei comunismi internazionali. Hai 5 minuti però, esatto. Perché se no è troppo accademica. Esatto. Non va bene. Okay. Chi accompagna non ha fatto. Proprio se hai bisogno materiale. No, appunto una domanda a cui non ho una risposta, però no, cioè io la cosa che mi verrebbe da dire è continuare a dare un reddito universale incondizionato, perché magari quello già toglie dei, diciamo, del ok, come faccio ad andare, come faccio a mangiare, come faccio a pagare le bollette, quindi avere questi, a soddisfare questi bisogni. E però appunto quello che si notava, poi io ho detto lavori di merda perché loro stessi dicevano lavori di merda, e di nuovo quindi interiorizzazione del classismo e tanta interiorizzazione, però allo stesso tempo questo fatto che loro dicevano, cioè sì, vogliamo lavorare però non accettiamo qualsiasi lavoro, è un'interiorizzazione fino a un certo punto, perché altrimenti avrebbero detto sì, qualsiasi lavoro è meglio di nessun lavoro. E c'è una persona che me l'ha detto, una persona che ho scoperto essere vittima di violenza domestica, e per lei anche andare a fare un lavoro per la collettività obbligatorio, perché tra l'altro non abbiamo aperto la questione che il reddito di cittadinanza obbligava anche a fare delle cose, lavori socialmente utili, questa persona non vedeva l'ora di uscire, cioè diceva così almeno io esco di casa. E anche quindi, però per cercare di rispondere e coinvolgerli è inutile, io continuo a pensarlo, cioè per loro comunque appunto avere un lavoro dignitoso è una cosa per cui non devono ammazzarsi per farlo, avere un, se sul contratto c'è scritto che io avrò 12 euro all'ora, io devo avere quei 12 euro all'ora. Se quel contratto dice che io lavoro part time, io devo lavorare part time, non lavoro full time, no? Perché poi si è tanto parlato di lavoro in nero, anche in nord sud, però ci sono tantissime storie di lavoro grigio piuttosto. E quindi loro era appunto, il lavoro rientra un rispetto, ma poi era soprattutto modo per stare con gli altri, per riconoscersi, quindi bisogna capire qual è l'alternativa al lavoro, perché quella cosa magari poteva, sull'Italia fondata sul lavoro eccetera, è una cultura che comunque adesso inizia, non potrà esserci perché cioè, non... i lavori sono sempre più precari e sono sempre meno pagati, quindi è una retorica che prima o poi non reggerà più. E questo può essere una prima speranza per cercare di un po' anche a dire a queste persone state rincorrendo, perché alcuni di loro quando mi parlavano come se, cioè a un certo punto io mi sono chiesta ma loro si rendono conto che sono in un, cioè la maggior parte di loro purtroppo aveva una licenza media. Purtroppo, cioè, aveva la licenza media, cioè nel senso mi che volevano un lavoro a tempo indeterminato, a determinate condizioni, che era impossibile da avere nelle loro condizioni purtroppo, era molto molto molto difficile, quindi era come se che se dessero qualcosa che non esisteva. E quindi, cioè non so, dialogare con loro su questa cosa. Cioè anche, non so, conversare sulle opportunità di lavoro che ci sono, ma non solamente per loro, per tanti, forse è un primo passo per capire che questa cosa forse non regge più, non lo so. Cioè non è, non, il lavoro per come è diventato, forse lo è sempre stato, però adesso è proprio visibilmente diventato qualcosa che non può dare quello che loro cercano nel lavoro. E quindi coinvolgerli per cercare di capire che cos'è che può dare questo. Che cos'è non lo so, quindi non ho risolto. Cavolo. Vabbè, però il problema appunto non è la licenza media o il dottorato, è un sistema, è un mercato del lavoro che non riconosce, come nel caso del lavoro di cura, quella esperienza, sì, come esperienza produttiva, perché ormai abbiamo un mercato del lavoro spostato verso i servizi, devi avere quel tipo di formazione che ti orienta verso la produzione nel settore terziario principalmente, e quindi ci siamo spostati verso concepire il lavoro importante, migliore, quello che sta nelle fasce più alte di istruzione, dove puoi dire ho fatto il master in marketing, allora lavoro nell'azienda marketing. Ma se fosse riconosciuta anche se fossero riconosciuti i percorsi discontinui, che nel tuo libro sono tantissimi, i beneficiari con dei percorsi discontinui, si potrebbe trovare un lavoro per tante persone. Il problema è che magari anche quando dicevi un classismo interiorizzato, ma io non lo so perché non li ho intervistati, però mi chiedo, ma è classismo o è perché le condizioni di quei lavori sono talmente pessime che non li vuole nessuno? Cioè non penso che sia anche in quel caso, non è che c'è snobismo, è che sono condizioni di lavoro pessime e mal pagate e terribili, quindi non abbiamo trovato la soluzione all'alternativa al lavoro, ma possiamo... però è la domanda. No, dico solo questa cosa qua che secondo me è molto interessante perché ci cambia anche un po' la prospettiva. Io non mi ricordo, mi ricordo che l'avevo letto, non mi ricordo però se erano stati diciamo le aree liberali, repubblicane o comuniste, però l'idea della Repubblica fondata sul lavoro era una cosa molto interessante che potrebbe essere utile anche da riproporre in altri termini, perché si sottolineava come il poter partecipare alla vita pubblica, cioè alla democrazia, si poteva fare solo con il lavoro. Non perché il lavoro veniva legato alla democrazia, ma perché se tu hai un buon lavoro, cioè se tu hai un lavoro e quindi hai le tue condizioni, le tue necessità, diremmo anche oggi desideri, eccetera, eccetera, coperti, puoi dedicarti al bene pubblico. E questa roba qua, però, cioè il fatto che il lavoro sia legato alla democrazia, nel senso di una partecipazione alla cosa pubblica, alle scelte, eccetera, eccetera, qualcosa che anche, insomma, la storia delle sinistre successive un po' non ha portato più di tanto avanti. Secondo me invece è molto interessante questa cosa qua, perché lo era anche quando le internazionali lottavano per lavorare meno, cioè le 8 ore, cioè l'obiettivo era sì strappare potere al capitale, ma avere anche più tempo per noi e lavorare tutti, lavorare meno, lavorare, cioè, e questo è un elemento molto interessante che andrebbe, insomma, tematizzato sempre più, soprattutto di fronte alle crisi delle democrazie liberali, comunque, perché, cioè, sta roba c'è, quindi non è che si può far finta di, cioè, questi sistemi, cioè, anche i sistemi internazionali creati dopo la Seconda Guerra Mondiale, vediamo che c'è gente che ci sputa sopra se dicono che un soggetto va arrestato perché è a causa di un genocidio, cioè poi va libero in tutto il mondo e nessuno lo prende, cioè è calpestato una serie di situazioni. Poi io non sono un grande affezionato né allo Stato né alla Repubblica né agli organismi internazionali, però per come erano nati, quando erano nati, con che obiettivi, ti rendi proprio conto il dove siamo arrivati, arrivate anche oggi. E il lavoro nella Costituzione era quella roba lì, cioè era l'emancipazione, era proprio l'emancipazione e la diretta partecipazione alla cosa pubblica. E questa è una cosa molto interessante. Tutte le volte che sento dire di lavoro nella liberazione, mi spiace, lo faccio sempre la stessa citazione, che perché ci sono stato, che vabbè, che roba subito, cioè è la scritta che c'è sopra Auschwitz, cioè Arbeit macht frei, perché il lavoro rende liberi, eh? Colpa di Hegel. E dei nazisti, anche un pochino dei nazisti. Ok, ci sta. No, la questione è che, quindi sì, è vero, cioè il lavoro ti può rendere partecipe o liberarti dai bisogni materiali, ti può liberare dalla condizione di schiavismo che si nominava prima, perché non sai fare niente, allora solo l'ultima cosa potrai fare, sarai ridotto a essere sempre il residuo, no? Quello che rimane. Tutto vero, però anche è vero che diventa, cioè, lo cantava un giovane, un grandissimo intellettuale moderno, che è Salmo, che in un grandissimo dissing con, com'è che si chiamava, Pino Scotto, gli faceva questo contro-rap e gli diceva: te l'ho avuto 30 anni in fabbrica, 30 anni di galera. Ma una roba che si rivendicavano anche gli autonomi negli anni 70, non vogliamo andare in galera. Per competenza, se ci pensi, come il mutuo è una galera, anche il lavoro in fabbrica è una galera, 8 ore al giorno tutti i giorni in un posto che ti comanda lui, i tempi, i modi di vita, le azioni, i tempi moderni, tutto il resto. Per cui c'è, se è vero che il lavoro è liberazione dalle proprie necessità, è anche vero che ultimamente il lavoro è diventato una merda, ripetitivo, inutile, degradante e tendenzialmente che non realizza il soggetto, che forse è il problema. E anche lì il problema, secondo me, è lessicale. Nel momento in cui il lavoro non è più la roba di termini marxiani, riprodurre altro da sé, fuori da sé, quindi come un dio creare la propria immagine fuori, quindi riconoscere nel frutto del proprio lavoro l'immagine che si ha di sé, è diventata una roba devo lavorare perché devo mangiare. Però cioè, anche lì dovremmo ribaltare un po' il tavolo, come dicevano le associazioni di zona qui un po' di tempo fa, e dire: ma dobbiamo smetterla di lavorare soltanto per portare i soldi a casa, iniziare a dire: ma meglio a rubare piuttosto, meglio fare un casino, da meno spaccare le vetrine piuttosto che accettare una condizione del genere. È chiaro che farlo capire a chi ha 60 anni, 50 anni, 40 anni, adesso io ne ho 34, noi ne abbiamo 34, quindi forse iniziamo forse essere anche nell'età giusta, per convincere i nostri coetanei e le nostre coetanee, cioè, che questa cosa qui è la cosa importante da fare, perché non se ne può più di accettare sto ricatto maledetto del lavoro, perché non si può fare altrimenti. Vabbè, oltre ai miei voli assurdi, in realtà, vabbè, una cosa che mi aveva sconvolto nel racconto che hai fatto, perché un po' ne avevo avuto la percezione quando si parlava di reddito di cittadinanza ai tempi, soprattutto durante il Covid, ma così chiaramente no, c'è questa follia allucinante per cui in tutta la Puglia 2 persone vengono richiamate, sì dai cercati un lavoro, cioè boh, cose non cose, alle 2 del mattino presentarsi al centro di collocamento, cioè è evidente quello che diceva anche Mauro prima, che c'è uno scollamento mostruoso tra nord e sud. E solo adesso ho pensato come doveva essere leggere un titolo della Repubblica quando lo compravi in un edicola a Taranto, rispetto a comprarlo a Milano, perché se lo compri a Milano sei nel centro del paese che parla male del resto del paese, se lo compri a Taranto sei il resto del paese di cui tutti quanti parlano, perché siamo lo zimbello di tutti, perché qui non lavora nessuno, cioè degradante, umiliante, evidentemente oltre ogni dire, io immagino. Ecco, una cosa che mi sono ricordato, l'ultimo così poi finisco, che riguardava quello che diceva prima Mauro, no? Quello che veniva fatto dalle prime internazionali, la lotta per ottenere un lavoro migliore, che è arrivata, e secondo me è stato molto bello e interessante presentare qui un libro che parlava del percorso politico delle BR prima del loro primo omicidio politico, che raccontava del fatto che le BR nel 68, una roba del genere, nel 74 sono state riconosciute in maniera inequivocabile come la prima organizzazione politica al mondo che ha usato il termine globalizzazione, in un proprio volantino del 74. Sono riusciti, prima di chiunque, hanno detto, prima di testate giornalistiche, prima di professori universitari, documenti, paper, i primi a usare la parola globalizzazione, già nel 78, una roba del genere, forse adesso le date non sono giuste, lottavano per il reintegro degli operai in catena. Cioè, si era passati dall'essere così avanti da descrivere al capitale dove stava andando il capitale, nemmeno il capitale lo sapeva, il capitale semplicemente aveva scoperto che si poteva produrre in Brasile quando gli operai facevano i picchetti davanti alle fabbriche e lo aveva inventato come soluzione ai propri problemi, mica perché doveva fare una roba politica. Si è passati a lottare per il reintegro nel luogo che tu in realtà volevi distruggere, perché era una gabbia, perché era la prigione, perché non te ne fregava niente. Cioè, il cortocircuito è evidente. Quindi, obiettivamente, per me ora, torno a quello che dicevo anche prima, cioè, deve essere il rifiuto del lavoro il punto più vato, perché non se ne parla di ritrovare altre forme per lavorare ancora, per far guadagnare ancora loro, per giocare ancora in casa loro, perdendo probabilmente noi. Quindi, vabbè, insomma, forme di infatti, le altre forme sono, cioè, altre forme che, di cose che permettono loro di emanciparsi, che permettono a tutti noi di emanciparsi, di riconoscersi parte di una comunità, non altri modi per lavorare meglio, no? E... Ah sì sì, no. Ok. E poi una cosa sul centro per l'impiego. Il centro per l'impiego dopo qualche mese è stato in realtà chiuso a Taranto perché non c'erano le condizioni igienico-sanitarie minime. Io non credo che una cosa che ho scritto io su un articolo che leggiamo tre persone sia stato il motivo per cui l'abbiano chiuso, però io ho raccontato di come diverse volte mi sono trovata l'intonaco in testa, il corso di formazione non si poteva fare perché la moquette non era stata mai pulita, non c'erano, i navigator sono arrivati, si sono messi a pulire loro le stanze, tutte cose così. Era tra l'altro in una... Erano praticamente un appartamento in una casa, il centro per l'impiego, e niente, comunque è stato chiuso per un anno, più di un anno e mezzo comunque, è stato riaperto pochissimo tempo fa, quindi poi una certa, cioè non c'era neanche un centro per l'impiego dove andare, quindi dovevi o parlare al telefono o sempre con persone che molto spesso non hanno una macchina, andare in un altro paese della provincia dove il centro per l'impiego era attivo per fare alcune pratiche, per andare da loro. E quindi, cioè, in alcuni casi sì, ci sono delle politiche sicuramente condizionali che puniscono, sicuramente disegnate così, però alle volte l'implementazione poi è tutt'altro, cioè non ce la fanno neanche loro a fare quello che vogliono. Per fortuna, o purtroppo, perché alcuni avrebbero tanto voluto avere un centro per l'impiego funzionante. Tutto bene. Esatto. Ma anche, ripeto, la questione dell'associazionismo. Cioè, io lo noto da quando sono a Milano. Cioè, ci sono anche spazi su cui discutere di queste cose. Purtroppo in altri ambienti, ad esempio un ambiente come Taranto, ci sono posti del genere, ma parli sempre solamente dell'Ilva. Anche dell'Ilva. O meglio, dell'inquinamento dell'Ilva, neanche della questione degli operai, delle condizioni in cui lavorano, eccetera. No, della questione dell'inquinamento dell'Ilva rispetto alla città. Non se ne può più. Cioè, io continuo a dirlo in ogni riunione di collettivi, eccetera. Cioè, siamo comunque in qualche maniera, questa città è sempre dipendente dall'Ilva, anche nei discorsi contro l'Ilva. Anche perché oltre all'Ilva c'è l'ENI, c'è una discarica, ci sono tante altre fonti inquinanti, ci sono le macchine che si prendono per ogni, cioè anche per 600 metri, cioè delle cose allucinanti. Ci sono altre domande? Commenti? È interessante questo che state parlando. Non è amplificato, okay. È un po' finto in realtà. È per registrare. È interessante. Sono arrivata per caso, no? È interessante questo tema del lavoro. Io sono una che come tutti abbiamo bisogno del lavoro per guadagnarci la vita, per questa cosa è una cosa che ma siamo già vivi, no? Già l'abbiamo. In Italia, io sono di Venezuela, e è molto forte questo di che deve avere una laurea, una cosa. Io ho studiato architettura urbanistica senza laurea, però in Venezuela sono riuscita a lavorare con impiantistica, fare cose, disegnare CAD, no? E qua per fare quello, anche se sei, per esempio, ho avuto un'opportunità di lavoro poco fa, perché il proprietario della ditta, conosceva l'altro proprietario della ditta, e qua sono andata lì, mi hanno detto, sì, inizia in marzo. Dopo mi hanno detto, no, perché le hanno detto, neanche me lo hanno detto in faccia, che non mi davano il lavoro perché, essendo donna, posso distrarre agli altri, sai? Io, ma dov'è questo? Qualità. Ma, tu pensi, io, lasciamo stare. È una merda, sai, che... Che tipo di laboratori hai tu per ahí che non sono capace di concentrarsi al suo lavoro? Però sì, esatto, il problema è loro hanno lo stesso bisogno di me, no? Di guadagnarsi i soldi, no, per farsi la vita. Questa è una cosa che in Italia è un paese che sì, che si trova indietro con questa l'opportunità per le donne, se c'è tanto. Ho un'amica in Belgio che lì stanno sempre inserendo donne, è una quota che deve ogni ditta coprire, no? Un'altra cosa, questa la libertà economica di fare business, no? Di fare negozio, di fare noi a piedi qua non ne abbiamo, no? Per esempio in Latinoamerica è molto più facile fare una cosa anche non legalmente, diciamo, no? Però qua per fare una cosa legale è difficilissimo, no? E se arriva la Amazon, no? Altre applicazioni, cose che fanno la sua sede legale in Belgio, in Irlanda, no? E hanno questa libertà di fare economia, non c'è libertà economica per noi, sai? Qua diciamo ogni paese ha il suo indice per capire questo. E è una cosa interessante come noi umani entreghiamo tutto il nostro potere, la forza per l'organizzazione di tutta l'industria bellica, dello scopo di questo più potere sopra noi, no? E sì, questa capacità che hanno di organizzazione, anche la scienza, no? Il digitale, la programmazione, la comunità che c'è intorno a questo è molto organizzata e invece noi continuiamo a essere pazienti, no? Vogliamo che ci danno il soldo, entregare la vita, ci danno il soldo, non so, è una cosa strana. E soprattutto qua in Italia che il Stato guadagna più che il lavoratore, no? Il lavoratore è che meno guadagna con il suo lavoro. È una cosa, siamo in una situazione di schiavitù molto, sai, come si dice, truccata con il comfort, con la finta libertà che abbiamo. Però guadagna più di noi, lo che voglio dire, no? Guadagna più con noi che guadagnano proprio, uno prende che 1200 in un buon caso e loro prendono come 17.000 per ogni persona in ogni mese, no? Tanti sono, sa, pochi lavori remunerano bene alla persona e questa è una cosa brutta, come continuiamo a fare le stesse cose, gli umani sempre, no? Grazie. Aveva ragione chi era, Bossi o era Salvini che era per la secessione economica? Aveva ragione, aveva Bossi, compagno Umberto, grande Umberto, secessione economica. Che è vivo? Boh, non lo so, è ancora vivo, l'ho incontrato, è venuto in Antigone. Vabbè, comunque io ripeterei che il problema non è per forza il lavoro, ma chi controlla il lavoro. Se i lavoratori fossero protagonisti del loro lavoro e delle loro condizioni, allora il lavoro sarebbe anche un'altra cosa, forse così ce ne usciamo un po' meglio. Questo direi che è un attimo spunto. Quello è fucile di spalla agli operai. Tutti imprenditori di no. E niente, abbiamo concluso. Abbiamo l'hai vista la gatta? È bianca? È scappata lì? Ti ringraziamo un sacco, ti invitiamo al festival di Meltemi, se vorrei venire sei più che benvenuta. Peccato che domani Maristella parte, se no poteva venire e ci lascerà per qualche mese per andare a fare altre belle ricerche in giro per il mondo. Sono immigrati irregolari. Vabbè, lasciamo stare. L'etnografia non finisce mai. Per beneficiare il reddito di cittadinanza le persone senza documenti contro a New York che lottano contro Trump. Periodino facile anche lì, Bello. Facilone. Grazie. Grazie. Grazie a voi.